9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. Eh no, e l'avevamo detto, dobbiamo mantenere le promesse. E quindi anche oggi terza strofa dell'inno tedesco. Terza, continuate a non capire, pensate che io metto la prima, la seconda. Terza strofa dell'inno giusto, quello che dà forza all'Europa, quello tedesco. Date un occhio ai titoli dei giornali di oggi. Libero per un giorno, forza Monti. Il premier finalmente minaccia la Merkel. O cede o mi dimetto. Ma la cancelliera lo gela. Ma Eurobond finché vivo. Capite? Dopodiché Repubblica, Monti, salvare l'euro a ogni costo, trattativa a oltranza. E va bene, qui siamo almeno sul riferire le parole. Monti tratterò a oltranza, dice il Corriere della Sera, ma sotto mette un sommario. Avviso a Berlino. Avviso, capite? Qui stiamo dichiarando la guerra. La stampa di Torino, titolo: Monti Merkel sfida per l'Europa. Niente Eurobond finché vivrò. Monti, non lascerò il tavolo senza che ci sia stata l'intesa. Bene. Forse è meglio sentire l'inno tedesco, va? Perché questo paradosso dell'informazione italiana che vi sta abituando a una cosa. Tra un po' sentiremo un telegiornale con qualcuno che scandisce: la dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli... Ecco, questo tono, devo dire la verità, mi sembra totalmente inadeguato rispetto alla serietà di una questione che vi ripropongono esattamente con lo stesso spirito con cui vi chiedono di affrontare la visione della partita Italia-Germania agli europei di calcio. Qui non stiamo parlando di calcio, non stiamo parlando dello sport, anche se io credo che nello sport, come nei mercati, come nella vita, come nei contesti tra ordinamenti statuali, dovrebbero essere poi appunto i più bravi a prevalere, i migliori, no? Ecco, questa atmosfera che in 2 anni e mezzo è cresciuta di fronte al problema irrisolto della cooperazione europea, arriva a questo vertice Consiglio Europeo del 28-29 con anche Monti che ieri ha dichiarato in Parlamento, al Parlamento italiano: effettivamente i tedeschi capiscono, oppure io rimango al tavolo aperto fino a lunedì, perché i mercati non possono aprirsi senza una risposta che a questo punto sia veramente definitiva. E ieri la stampa europea ha rilanciato queste parole che il cancelliere tedesco Angela Merkel avrebbe pronunciato a un incontro a porte chiuse con il gruppo parlamentare del partner di coalizione della CDU-CSU, cioè i liberali dell'FDP, e in questo incontro appunto la cancelliera tedesca avrebbe detto che fino a che è viva non ci sarà una mutualizzazione, una federalizzazione, una garanzia comune ai debiti pubblici che fino a questo momento sono nazionali. Al che naturalmente a queste parole, diciamo, l'Europa si divise in due: da una parte chi ha detto finché è viva, allora ha iniziato a fare le fatture contro Angela Merkel, dall'altra invece i parlamentari dell'FDP e le persone ragionevoli, secondo me, hanno augurato lunga vita al cancelliere tedesco. Ma insomma, la radicalizzazione di queste posizioni e delle sfide che l'Italia, in quanto eurodebole, che è più esposta alla reazione del mercato se non ci sarà una soluzione cooperativa, è la più esposta, perché oramai dopo la Grecia, dopo la Spagna e dopo prima il Portogallo e l'Irlanda ci siamo noi con il nostro immane debito pubblico esposti all'attacco dei mercati, con un debito pubblico che abbiamo fatto noi, non i tedeschi, con una spesa pubblica che è record perché l'abbiamo decisa noi, non i tedeschi, con una pressione fiscale che è record perché l'abbiamo decisa noi, non i tedeschi, senza che siamo riusciti a diminuirla perché l'abbiamo deciso noi, non i tedeschi, con un ordinamento amministrativo pervasivo e ladronesco che è nostro, non costruito dai tedeschi. Per queste ragioni noi siamo esposti al morso dei mercati. Un morso dei mercati che ha cambiato la politica italiana, come ha cambiato quella di tutti i paesi eurodeboli in questi anni, perché ha messo alla frusta i nostri difetti. Ma ammettere i difetti è qualcosa che non riesce bene alle classi dirigenti di questo paese. È sempre preferibile dire che la colpa è di un altro. E quindi la stampa, ma le classi dirigenti, ostinatamente vi propongono un ritrattino nel quale noi saremmo più forti di tutti gli altri, ed è vero, non abbiamo ovviamente il problema della Grecia, non abbiamo una bilancia di pagamenti negativa a doppia cifra come il Portogallo, non abbiamo un quarto di PIL fatto sull'immobiliare a bolla come la Spagna e il suo problema delle casse di risparmio, ma il nostro debito pubblico è gigantesco e la sfida posta da un paese che ha così elevata spesa e pressione fiscale è gigantesca. E di tutto questo, forse dovremmo trovare la modalità responsabile in questa eurocrisi per approfittare e per chiedere, più che un meccanismo di garanzia di altri a nostro vantaggio, trovare il modo per accelerare il percorso di soluzione di problemi che hanno radice e responsabilità solo in scelte pluridecennali italiane. Questo è il mio minoritarissimo punto di vista. Questa è la mia maniera di provare qualche brivido oramai nel vedere crescere il colore e la radicalità con cui man mano che ci si è avvicinati all'eurovertice vi è stata dipinta la posizione tedesca come la posizione di un paese irresponsabile, dimentico della storia che abbiamo alle nostre spalle dello scorso secolo, cioè quella storia per svoltare rispetto alla quale è nato proprio il progetto europeo ed è nato con una Germania che è sempre stata in prima fila nel sostenerne le ragioni, proprio perché consapevole delle responsabilità che aveva avuto nel secolo alle nostre spalle. Allora, andare a questo Consiglio europeo con questa specie di rappresentazione a partita di calcio, la mia opinione è che, pensatela come volete all'europeo, io tifo per chi è più bravo e più forte, ma un conto sono le partite di calcio, altro conto l'Europa e il Consiglio europeo. Allora, proprio per questo, sapendo che molti ascoltatori credono che venga direttamente pagato dal Ministero degli Esteri tedesco, ma non è così, abbiamo deciso di fare una puntata tutta incentrata sul capire meglio la posizione tedesca, chiedendo a ospiti tedeschi, oppure che sono italiani che vivono in Germania, di spiegarci meglio questa vigilia di Consiglio europeo, di spiegarci meglio il dibattito interno a quel paese e come è possibile aspettarsi una svolta e di che tipo, in che direzione al Consiglio. Speriamo che molti di voi ascoltino senza cadere nella trappola del tifo curva nord, curva sud, che, credetemi, non aiuta mai, ma tantomeno aiuta un'Europa che dal più grande mercato del mondo, come è oggi ancora, è diventato il bubbone, purtroppo, che ha fatto rimbalzare la propria crisi in un rallentamento dei paesi emersi, non emergenti ma emersi, e anche negli Stati Uniti, con la bella ombra sulla rielezione di Obama. Questo non mi dispiacerebbe, ma comunque vedremo. Allora, finito l'inno, iniziamo con il nostro primo ospite, che è Tobias Piller, è corrispondente della Frankfurter Allgemeine in Italia. Buongiorno e grazie. Buongiorno. A Tobias. Allora, ci dici innanzitutto sulla stampa interna, il dibattito di questi ultimi giorni in Germania, come ci si avvicina a questo Consiglio europeo? Ci si vive anche lì questa atmosfera da scontro diretto che c'è sulla stampa italiana, oppure no? Ah, non vedo così gladiatori che si stanno preparando per la grande battaglia. Vedo certamente una grande discussione intellettuale sul fatto se bisogna essere più keynesiano, spendere subito, o se bisogna essere più orientato verso i dati fondamentali per risanare con uno sguardo più a lungo e così via. E quali sono i principi di base? In questo dibattito c'è, i vari Krugman o altri vengono letti anche in Germania, ma non vedo titoloni a parte di questo tabloid Bild, che certamente lo vede in un certo modo che può lo specchio di quello dell'Italia. Ma mi chiedo, ma Bild è quello il livello di qualche titolo in Italia? Bill, molte volte lo abbiamo richiamato dandogli un occhio, richiamando come è grande quotidiano iperpopolare con molti milioni di lettori e che fa aperture, titoli, fotografie parlando un po', per così dire, alla pancia, se mi si passa al termine dell'elettorato tedesco, e molte volte insomma tende a presentare gli eurodeboli un po' come gli eurodeboli attribuiscono la colpa ai tedeschi di vederli, cioè come una mandria di ladri scrocconi, più o meno, ecco, diciamo. Che però, ci dice Tobias, un conto è Bild, un altro conto vedere i grandi giornali italiani che invece fanno questa rappresentazione dei tedeschi. Si è collegata con noi anche Esther Faia, l'abbiamo già avuta diverse volte, che insegna alla Goethe University di Francoforte, insegna politica monetaria. Io la ringrazio di essere qui con noi. Chiedo a Esther Faia, la posizione che l'Europa latina, anche l'Italia di Monti, avverte nel no tedesco alla federalizzazione di quote del debito sovrano nazionale. È davvero, come molti sostengono in Italia, a suo giudizio, il passo che potrebbe portare al breakup dell'euro? Oppure l'euro, invece, come sostengono minoritari come me, è nato avendo detto esplicitamente che quella cosa era sbagliata farla, perché eravamo a mercati che restavano separati, e con mercati separati era improbabile, anzi ingiusto, pensare subito a una banca centrale BCE come la Fed, come che tutti vorrebbero oggi in Europa, dicendo è l'ostinazione tedesca a non volere questo, a non voler federalizzare il debito sovrano che resta nazionale, quasi un no oramai alla permanenza in vita del progetto europeo. Poiché la banca è la moneta, il fatto di avere una banca come la Fed o meno e di monetizzare il debito pubblico sono due cose fondamentali rispetto a quello che lei insegna all'università, professoressa Fai. Qual è la sua visione da italiana che però opera e insegna in Germania? Professoressa? È caduta la linea, ragazzi. L'avevamo collegata, provate un secondo a vedere se c'è la linea. Tobias? Sì. Ecco, Tobias Piller è rimasto invece collegato. Sì. Nel partito, è chiaro che questa battuta ieri pronunciata dalla Merkel incontrando l'FDP, i liberali sono, diciamo, la componente della sua maggioranza che anche per recuperare voti eccetera eccetera è diventata più rigorosamente portabandiera, per così dire, del nessun regalo agli eurodeboli. Ma nel suo partito e all'interno della SPD, e soprattutto di quell'ala della SPD che ha collaborato anche con la CDU CSU, quindi non con l'ala più a sinistra, è condivisa la linea con cui la Germania si avvicina all'eurovertice, oppure ci sono dentro divisioni, dibattiti, c'è qualcuno che dice stiamo sbagliando nei confronti d'Italia, Spagna e così via? Diciamo che sul lato politico della cancelliera c'è grande condivisione di una linea molto dura. I socialdemocratici avevano questa idea a un certo punto di mettersi sulla linea Krugman, così salvare l'euro, condividere il debito. Poi hanno capito velocemente che 80-90% della popolazione sta invece non su questa posizione, e sta su quella posizione della Merkel, e anzi è ancora molto più dura della Merkel, così, e ha tanta paura che la Merkel cedesse anche un millimetro, e mentre la Merkel è più diplomatica quando va sulle conferenze. Allora anche i socialdemocratici hanno cominciato a arretrare e si sente molto meno di queste posizioni in pubblico che bisogna così venire incontro all'Italia, alla Francia e così via. Mi sembra che i tedeschi voteranno al modo opposto dei francesi, così, voteranno chi offrirà più stabilità. Però ci spieghi un secondo questa cosa a cui non eravamo, per così dire, pronti, cioè vedere che il ministro delle Finanze Schäuble, un ministro autorevole, molto conosciuto, di un peso politico rilevante all'interno della coalizione, che riconosce che esiste un problema, quel problema del limite posto dalla Costituzione tedesca, richiamato formalmente ed esplicitamente all'atto del recepimento del trattato, ed è il limite che dice nessuna possibilità di prendersi in carico quote di debito altrui se non è direttamente esaminata e votata dal Parlamento, cioè è il richiamo esplicito che i tedeschi fanno ogni volta che entra in questione la federalizzazione del debito sovrano nazionale. E Schäuble ammette che questo è un problema che esiste, tanto da dire potremmo ricorrere a un referendum chiedendo ai tedeschi, e lo ha fatto in maniera appunto responsabile, dicendo, parlando di anni, non dicendo dobbiamo farlo domani, però ammettendo che il problema esiste, e aver visto entro poche ore invece la cancelliera che l'ha smentito. Quindi questo, come mai Schäuble ha fatto quella dichiarazione secondo te, Tobias? Ma Schäuble viene ancora dalla generazione che è stato al governo con Kohl, e Schäuble in quel senso è anche abbastanza europeista. E dall'altro lato è stato frenato il governo con le sue attività anche a dare almeno una sponda alle esigenze di politica europea dalla Corte Costituzionale, che ha detto il Parlamento non vi darà un assegno in bianco per andare da qualche conferenza e poi ci sarà un conto che non si può neanche ancora qualificare, che poi comunque il Bundestag è costretto a votare. Allora Schäuble ha dovuto ammettere questo, ha dovuto trovare anche o proporre una strada per andare avanti. Altro punto è la Germania non è in questa situazione storica come per esempio l'Inghilterra, che aveva una Maggie Thatcher che semplicemente è andato alle conferenze europee dicendo no. E in quel senso la Germania vuole essere più costruttiva, e qualcuno lì vede una posizione che, come un'Europa rafforzata, come una fuga in avanti, ma certamente non una situazione dove semplicemente la Germania paga e poi ci sono un po' di obblighi che vengono poi diluiti e alla fine non ci sono più, perché alla fine ci sono dei rischi per tutta l'Europa a lungo termine se viene dato una sponda a chi non fa abbastanza riforme. In quel modo viene deresponsabilizzato, viene così tolta la motivazione a fare riforme se qualcuno viene a dire ti pago il conto comunque. E allora è come la nonna che dà sempre i soldi al nipote, comunque sia spendaccione. In quel senso certamente non cambia mai il modo di vivere. In questo senso, senza moralismi, ma con uno sguardo a lungo termine, certamente non aiuta alla sostenibilità dei conti europei. Professoressa Faia, spero che la linea si sia ristabilita, mi hanno detto che aveva sentito la domanda, quindi insomma il problema è del che tipo di banca centrale e il vincolo alla monetizzazione dei debiti nazionali. È coerente rispetto al progetto europeo oppure è incomprensibile il no tedesco su questi due punti? Guardi, lei ha cominciato con gli Eurobond, che mi sembra la cosa più importante. Allora, io non, diciamo, su alcune cose il dibattito mi sembra un po' surreale, perché non è affatto vero che, diciamo, non ci sarebbe spazio per cose come gli Eurobond. Pensi a una cosa, che i paesi che li chiedono non hanno mai definito un piano per gli Eurobond. Se Monti domani volesse andare al Consiglio europeo e chiedere gli Eurobond, potrebbe scrivere con i suoi ministri un piano. Al contrario, la Germania lo ha fatto. Il piano dei 5 saggi degli Eurobond è considerato uno dei piani migliori scritti e proposti. In Italia, in Spagna e in Grecia questo piano non è mai stato proposto. In Germania viene discusso quotidianamente e non è interesse della Germania discutere di Eurobond. Eurobond. Allora, spieghiamo perché il piano dei cinque saggi non è discusso in Italia e non sarebbe accettato. Perché il piano degli Eurobond prevede che, giustamente, quando si emettono dei bond comuni, va offerta una garanzia. E di solito si pensa a garanzie in termini di riserve auree oppure in termini di altre attività reali. Se si vuole mutualizzare il debito, così come si sta chiedendo, non si può chiedere alla Germania semplicemente di pagare. Un'assicurazione o una mutualizzazione prevede che si offra una garanzia a fronte dell'emissione del debito, o che se si faccia un fondo comune che debba aiutare gli stati, tutti gli stati debbano contribuire. Cioè, al momento pensi che per esempio la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda ricevono gli aiuti ma non contribuiscono. È come se lei partecipasse a un fondo assicurativo, non ne paga il premio, però se fa un incidente richiede di essere rimborsato. Quindi la cosa che mi sembra assolutamente surreale e che ha irrigidito le posizioni è che si sta parlando di cose che non c'entrano niente. Se veramente l'Italia vuole avere gli Eurobond, deve fare una cosa molto semplice: domani il signor Monti deve mettersi nella sua borsa una garanzia reale offerta dall'Italia, che nel piano degli Eurobond e cinque saggi corrisponde al 20% della richiesta di emissione di Eurobond. Deve arrivare lì con la sua garanzia reale e deve dire che accetta il piano degli Eurobond, che è un piano assolutamente ragionevole, e molto probabilmente gli verranno concessi. Quindi siamo parlando semplicemente di cose che forse non vengono discusse nella loro reale portata. E per quanto riguarda la Banca Centrale Europea, assolutamente non sono d'accordo. Il prestatore di ultima istanza deve farlo, e questo lo sta facendo, deve fornire liquidità al mercato quando il mercato è in condizioni di stress, ma mai e poi mai una banca centrale deve stampare moneta all'infinito, perché sennò si arriva all'iperinflazione tedesca. E i rischi della Fed sono ancora dietro l'angolo, infatti questo è un dibattito molto acceso negli Stati Uniti. Terzo, se noi abbiamo fatto la Banca Centrale Europea perché volevamo evitare i problemi di monetizzazione del debito che facevano le singole banche centrali, non si capisce perché adesso dobbiamo forzare la Banca Centrale Europea a monetizzare il debito. Sul fornire liquidità in caso di emergenza non c'è dubbio, e lo sta facendo, quindi, ma non andrei oltre quello. Allora, il motivo per il quale la proposta dei cinque saggi tedeschi in Italia o non è popolare o viene non presentata nel dibattito pubblico è che il conferimento in un fondo comune, che diventerebbe una specie di fondo di redemption fund comune, di quote di debito pubblico molto rilevanti, con garanzie comuni, per consentire ai paesi che hanno eccesso di debito pubblico rispetto al vincolo di convergenza a medio termine posto dal fiscal compact, di cui il fiscal compact è la disciplina per la parte di conto economico annuale, andrebbe, come è ovvio, alimentato, come ha detto la professoressa Faia, con il conferimento a quel fondo di garanzie reali. Garanzie reali significa che, visto l'ammontare di debito pubblico italiano che finirebbe in quel fondo, oltre alla garanzia delle riserve auree italiane, bisognerebbe pensare a garanzie di attivi patrimoniali italiani, molto probabilmente, poiché avremmo in una prospettiva pluriennale di abbattimento del debito pubblico, di quote rilevanti del debito pubblico, appunto per rimanere convergenti in Europa, la possibilità di riscadenzare, dovremmo mettere al servizio di quel fondo gli oneri necessari per pagare gli interessi dei titoli che scadono, che sono conferiti in quel fondo, e poi naturalmente per abbassare anno per anno la quota di debito pubblico lì garantita. Significherebbe, oltre a garanzie reali, finalizzare a questo fondo e al disegno di abbattere parte rilevante del debito pubblico italiano, ma con un meccanismo di garanzia, diversi punti di PIL l'anno di entrate finalizzati a questa ragione. Come vedete, ciò che contrassegna questa caratteristica è il fatto che non è gratis, per così dire, che il fatto di dire abbattiamo gli spread e siano i paesi forti a mettere mano al più che serve per fare convergenza su quote di spread meno elevate di quelle che toccano agli euro deboli non è un free lunch, come invece ve lo si ostinano a presentarvelo sui giornali italiani. È più o meno corretto quello che ho detto, professoressa Faia? Assolutamente. Assolutamente, ma non potrebbe essere un free lunch. Prima di tutto, se all'Italia o alla Spagna non piace questo piano di Eurobond, ne propongano un altro. Diciamo, in Italia abbiamo degli economisti al governo, quindi si possono sedere e proporlo. Il problema, appunto, è che bisogna proporre delle cose che abbiano un minimo di senso economico e che siano sostenibili. Cioè, è ovvio che non si può pensare a un'unione in cui, per metterlo in termini di pancia, come diceva Tobias Pillar, la Germania paga sempre a fronte di niente. Le ripeto, quando lei partecipa a un'assicurazione, non credo che nessuno mai le fornirebbe un'assicurazione senza che lei paga il premio. Mi sembra abbastanza logico, non esisterebbe, il free lunch non esiste in economia. Quindi, per quanto riguarda poi quello che, diciamo, riguarda le riserve auree, a parte che l'Italia può proporre altre garanzie reali se non vuole toccare l'oro. Secondo, il 20% attualmente l'oro della Banca d'Italia, ai valori, ai prezzi dell'oro attuale, potrebbe coprire quasi l'intero debito. La garanzia che si chiede per gli Eurobond è il 20% dell'emissione di Eurobond, che nel caso italiano vorrebbe dire circa il 60%, cioè abbattere il metà del debito. Quindi significa assolutamente niente. Secondo, si parla di una garanzia, cioè non si sta dicendo che si porta l'oro lì e i tedeschi se lo prendono. No, si mette l'oro lì e se l'Italia non ripaga gli Eurobond, quell'oro fa da garanzia. Mi sembra assolutamente ragionevole. Se lei emette un debito o se lei chiede un debito alla banca, la banca le chiede una garanzia. Non riesco veramente a capire come questa non possa essere una condizione accettabile. Così come, da ultimo, siccome lei ha citato la Fed prima, nella Fed, le Fed regionali non hanno affatto delle riserve auree. Esatto. Non si capisce perché le banche centrali nazionali, esatto, in Europa debbono avere le riserve auree. Le possono benissimo dare al Fondo Salva Stati oppure alla Banca Centrale Europea per fornire una garanzia contro l'emissione di debito comune. In altre parole, siccome alcuni ascoltatori si perdono le percentuali, poiché nella proposta del Consiglio dei Cinque Saggi ci si chiede garanzie pari al 20% di ciò che si conferisce, poiché nel nostro caso, avendo un debito pubblico pari al 120%, dovremmo conferirne il 60%, fate in fretta a calcolare che il 20% di questo 60% sono più o meno l'equivalente in valore di 12 punti di PIL in valore. Quindi non cifre, capito, incommensurabili. L'identificazione di meccanismi cooperativi per farci abbattere debito senza essere esposti a spread, che non prevedano fortissime garanzie d'esposizione italiane, semplicemente non esistono, capite? Cioè, mentre la politica, purtroppo, mi dispiace dirlo, anche da parte del governo in carica tecnico, e veramente non me lo aspettavo questo, vi ha indotto a credere che siamo sull'orlo di una frattura continentale, perché i tedeschi, nel loro egoismo nazionale, sono improvvisamente impazziti e c'è alla loro testa un governo di autocrati che sognano di fare il Terzo Reich, questa volta attraverso non la spada ma attraverso il loro modello economico, che verrebbe, come leggo sui giornali, imposto. Non capisco in quale modo imposto, visto che le specializzazioni produttive, le dimensioni di classe di impresa, le patrimonializzazioni di impresa restano poi molto diverse, lo ripetiamo tutte le mattine quando parliamo della nostra specializzazione produttive. Prima di salutare la professoressa Faia, la domanda: lei tiferà, si interessa degli europei di calcio, tiferà se guarda la partita tra Italia e Germania, per chi dei due? No, io non mi interesso molto di calcio, però, diciamo, dato l'impasse che c'è in questo momento in Europa, forse bisognerebbe dire a questo punto che chi vince le partite decide come vanno le cose in Europa. Il problema, le ripeto, è che è abbastanza una farsa dire che questi consigli non vanno bene a causa della Germania, perché se l'Italia vuole un piano degli Eurobond e non gli piace, o vuole un piano dell'Unione Bancaria, la Spagna, se vuole un piano dell'Unione Bancaria e non gli piace quello che è stato proposto dalla Germania, che lo facciano e che lo propongano lì. Diciamo, è abbastanza facile trovare una giustificazione nel dire loro non hanno accettato gli Eurobond, quando poi si sta parlando, come dice lei, di raccontare che la Germania dovrebbe pagare gratis. Non si capisce perché, sulla base di che cosa. Allora, ci ha raggiunto per telefono Manfred Kolbe, che è un deputato al Bundestag della CDU-CSU, parla italiano ovviamente, se no non vi infliggerei una traduzione in diretta sovrapposta alla sua voce. Io lo ringrazio di essere con noi. Buongiorno, onorevole Kolbe. Buongiorno da Berlino a Milano. Allora, noi stiamo facendo una trasmissione un po' controcorrente, onorevole Colbe, perché per una volta c'è una trasmissione con un conduttore italiano che non solo difende il punto di vista del governo tedesco, ma tenta di spiegarlo agli ascoltatori italiani e quindi di non intrupparsi e di allinearsi a questa specie di caricatura mediatica che purtroppo a me preoccupa molto, ci preoccupa molto, perché arriviamo a un Consiglio europeo decisivo e ci arriviamo con questa grande onda di fondo, e questa onda di fondo che tende a rappresentare il governo che sostiene il partito al quale lei appartiene, il cancelliere Merkel, ministri come Schäuble eccetera, come se fossero dei matti irresponsabili. Le chiedo, onorevole Colbe, questa consapevolezza che di sicuro avrete anche a Berlino vedendo la stampa europea, i titoli dei giornali man mano che ci si avvicina al Consiglio europeo puntano sempre più il dito contro questa specie di orgoglio tedesco che vorrebbe imporre all'intero continente il vostro modello economico, unilateralmente rifiutando i doveri elementari della costruzione europea, ma sui banchi del Parlamento tedesco questa consapevolezza, questa impressione di essere in un isolamento crescente e in un'incomprensione totale della posizione del vostro governo, che impressione vi fa? Che cosa pensate? Beh, ci fa una certa paura, perché siamo tutti buoni europei e vogliamo l'Europa e vogliamo anche lo sviluppo ulteriore dell'Europa, e lo voglio anche io personalmente, che sono cresciuto a Roma, cioè sono anche un po' italiano, anche se adesso sono membro del partito del Parlamento tedesco, ma certi paragoni col Terzo Reich o questi non servono proprio a niente. Dobbiamo andare in fondo ai problemi. Il problema è che abbiamo in Europa è che abbiamo una crisi economica, abbiamo paesi con una scarsa competitività e questi paesi devono introdurre delle riforme, e abbiamo una crisi del debito, abbiamo fatti troppi debiti in Europa e dobbiamo ritornare a una politica di risparmio. Questi sono i due problemi di fondo, e questo non è egoismo nazionale della Germania a imporli. Noi non vogliamo dominare nessuno, ma è nell'interesse dell'Europa, perché solo un'Europa economicamente forte ha una voce nel mondo e viene rispettato nel mondo, altrimenti non viene più rispettato e non ha nessuna occasione anche di esportare i propri valori come diritti umani, democrazia, se l'Europa fallisce economicamente. Sentiamo qualche ascoltatore rapido cosa ne pensa di questa, a mio giudizio, onesta, corretta e soprattutto non sopra le righe esposizione del fatto che c'è un interesse comune europeo, non solo della Germania come paese più rigoroso nella finanza pubblica e più produttivo nell'economia privata, ad essere un'area continentale che riequilibra l'eccesso di consumi pubblici finanziato a debito, di cui noi italiani siamo i campioni, e siamo purtroppo i campioni di questo, non è che ce ne possiamo vantare. E se non ci fosse stato la sferza di questi ultimi 2 anni e mezzo, chiedo a voi ascoltatori italiani, ma davvero davvero che cos'è? Il governo Berlusconi non stava facendo più spesa corrente e più pressione fiscale? È vero o no? Avremmo avuto, in assenza della sferza che ci è venuto dall'eurocrisi, ci saremmo focalizzati davvero nel contenimento e nel rientro del nostro debito pubblico, di cui ancora manca un piano credibile, visto che anche col governo Monti la cessione di attivi patrimoniali è stata solo promessa e non si vedono ancora i fatti? Ecco, queste sono le domande concrete che vi faccio. Quando alcuni di voi adesso stanno dicendo addirittura si consente ai parlamentari tedeschi di venire a parlare nelle trasmissioni italiane, ma siete tutti impazziti? È ovvio che sì, ed è forse la cosa migliore, piuttosto che dare rappresentazioni della posizione tedesca totalmente lunari come quelle che si vedono sui giornali di questi tempi. Sentiamo come la pensa rapidamente Marco da Varese. Prego Marco. Ah, buongiorno, volevo semplicemente dire che è assolutamente logico che il meccanismo di cui ha parlato la professoressa sugli Eurobond sia tale e l'Italia non ne parli, perché l'Italia non è in grado di fare nessuna riforma concreta, perché Monti non ha in realtà nessun potere. L'errore principale lo ha fatto Napolitano quando gli ha dato l'incarico, perché Bersani ha avuto paura delle elezioni, talmente semplice. Inoltre, quello che ha fatto Berlusconi nel periodo precedente ha avuto l'effetto di trasferire il debito italiano da creditori esteri a creditori italiani, quindi gli italiani mai e poi mai vorranno cedere delle sovranità su patrimoni immobiliari o su riserve auree per finanziare un debito che non hanno nessuna intenzione di ripagare. Il problema è proprio italiano. Se non hanno nessuna intenzione di ripagarlo, però guardi che il fatto che fino a un anno e mezzo fa il 54% del debito fosse solo in mani nazionali e il 46% in mano straniera, e purtroppo per effetto della repressione fiscale in corso adesso siamo passati a una quota di debito sovrano italiano meno di un terzo nelle mani di intermediari non italiani, cioè di stranieri. Questa roba ci deprime la crescita ulteriormente, perché l'effetto delle acquisizioni di quote crescenti di debito sovrano italiano da parte delle banche italiane e da parte dei risparmiatori italiani ha un effetto di crowding out, come si dice in termine tecnico, su impieghi di un risparmio italiano che peraltro sta scendendo, perché il reddito disponibile italiano sta scendendo, ed è chiaro che il fatto che lo Stato dreni a proprio vantaggio spiazza risorse da investimenti invece molto più produttivi. Questo lo dico a chi è in ascolto e mi dice che basta andare su posizioni giapponesi di un debito sovrano italiano al 100% in mani italiane, non siamo più esposti agli spread. Certo, basta ricordare però che il Giappone ha crescita flat da 15 anni, 20 anni, hanno il debito pubblico doppio del nostro, ma avendolo al 99% in mani proprie stanno col culo per terra e non crescono. Basta sapere che siete disposti, cari ascoltatori che ce l'avete con i tedeschi, a pagare a questo Stato Moloch italiano che continua a depredarvi, e voi gli andate dietro dicendo che ha ancora ragione. Cioè, questo è veramente, in greco si dice l'autontimorumenos, il punitore di se stesso. Per molti versi è il titolo della commedia che merita il contribuente italiano. Ancora ciecamente dice lo Stato ha ragione. Una roba da pazzi. Sentiamo come la pensa rapidissimamente Gianni da Roma. Prego Gianni. Buongiorno. Senta, io sono d'accordo su tutto quello che lei dice continuamente e continui a fare così. Adesso però mi devi dare solo un secondo per mettere tutto sul tavolo e trarre le conclusioni. Provi. Noi abbiamo una classe dirigente mediocre, il 60% del PIL viene consumato dalla politica. Al libero mercato c'è poco. La classe dirigente mediocre è cosciente che se facciamo bond e ci regionalizziamo come paese deve cedere ovviamente autonomia e nazionalità, e loro tremano. Se noi diventiamo come gli Stati Uniti e diventiamo come la BCE e la Fed, sì. Se noi diventiamo come gli Stati Uniti e la California diventa l'Italia, mi dice lei la Lega che cosa vende? Mi dice lei la Sicilia che oggi assume 20.000 persone e sfora dappertutto come fa? Ecco. Quindi il tema è: la classe dirigente, la politica, non è adeguata a gestire l'Europa di oggi. Gianni, la devo interrompere perché su questo siamo d'accordo, non è una critica, perché io ho sempre detto spiegare innanzitutto che per avere una BCE come la Fed bisogna unificare i mercati dei beni, dei servizi e del lavoro. La politica, che invece critica i tedeschi perché non vogliono la BCE come la Fed, naturalmente poi rivendica che i mercati devono rimanere con regolatori e norme separate. Ha perfettamente ragione. Secondo me non credo che noi saremmo la California in caso di un'Europa come gli Stati Uniti. Giuliano Amato dice all'Unità che la Merkel cederà, ma potrebbero essere tempi lunghi. All'Italia serve un piano B, e bontà sua Giuliano Amato dice: io dopo l'IMU non penso più a una patrimoniale, ma penso comunque a un ricorso volontario al patrimonio degli italiani. Quindi attenti, e ve lo dico, io non sarò mai d'accordo sul fatto che gli italiani devono dare ancora oro alla patria, e lo Stato col suo attivo patrimoniale che deve rispondere dell'abbattimento del debito, farlo in maniera credibile con un piano e un impegno serio pluriennale, e nel frattempo mettere garanzie per abbattere gli spread. Lo deve fare con i suoi attivi, non con le tasche nostre, che già dobbiamo sostenere una pressione fiscale corrente per la sua spesa corrente elevatissima ogni anno. Però Giuliano Amato dice invece che bisogna chiedere agli italiani. Intanto il premier Rajoy con una dichiarazione dice: non potremo finanziarci a lungo come Spagna questi spread. Quindi si va a una drammatizzazione ulteriore. Onorevole Colbe, posso chiederle un pronostico in vista di questo Consiglio europeo? Come andrà? Beh, come già ho detto, non c'è alternativa alle riforme strutturali nei paesi super indebitati. In Grecia devono cominciare con le riforme. Hanno un settore pubblico troppo grande, più un terzo della manodopera è impiegato nel settore pubblico. Questo non può funzionare, la Grecia deve cominciare con le riforme. E anche in Italia Monti ha cominciato benissimo, adesso sta un po' rallentando, la riforma del mercato del lavoro ancora non c'è, poi l'Italia ha una casta politica amministrativa con i privilegi più eccessivi in Europa e anche qui è successo poco, cioè, e anche la Spagna e il Portogallo, non c'è alternativa alle riforme strutturali in questi paesi. E questo dell'Eurobond è una discussione fantasma, perché anche in uno Stato federale come gli Stati Uniti non abbiamo la responsabilità comune per il debito. La California non è responsabile per il debito di Nuova York. Esatto, Nuova York, anzi anche la California è stata lasciata fallire, come noi ricordiamo anche sempre. Anche in uno Stato federale come negli Stati Uniti non ci sarà una responsabilità comune in Europa, perché questo non funzionerà mai, non funzionerà mai. Grazie onorevole Conte, con questo conto al vicino, esatto, grazie, questo sano, io lo condivido, appello a evitare che il vicino che ha i conti in ordine possa essere quello che risolve noi che i conti non li abbiamo in ordine. Grazie a Tobias Spiller, grazie a Manfred Kolbe, grazie alla professoressa Faia. Naturalmente so, lo vedo dai messaggi, che molti di voi non la pensano così e pensano che questa sia una visione deformata della realtà. Io credo di dovervi dire che la visione deformata della realtà è quella di chi vi propone questa idea totalmente fantastica di una Germania che vi vuole imporre un modello. Niente di questo, la Germania chiede a tutti di fare ordine a casa propria. A domani.